con Sofia Bolognini, autrice del libro Nasce, Cresce, Deserti, che è stato presentato ieri alla libreria Tuba. E intanto benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa, Sofia. Ciao, grazie, ciao a tutte, ciao a tutti. Mi dicono grazie. Che sia andato anche bene come momento. Sì, è stato veramente, veramente bello. Anche perché comunque è un testo che ha appunto un peso, un valore di un certo tipo, che secondo me contestualizzato in uno spazio come Tuba è stato veramente il luogo perfetto, è stato proprio bello, sì. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo per sommi capi l'argomento di questo libro. Sì, allora è una raccolta di due racconti brevi, scritti peraltro in due momenti estremamente differenti della mia vita, perché il mostro che raccontava storie l'ho scritto veramente 6-7 anni fa, mentre invece la ragazza col girasole è molto più giovane, nel senso che l'ho scritto solamente un anno fa. Quindi due testi profondamente differenti, anche per una questione meramente stilistica, meramente di lingua e di scrittura che io ho scelto, che però sono accomunati da alcuni temi forti che tornano in entrambi. Innanzitutto questi protagonisti che in qualche modo cercano, attraverso la ricostruzione del proprio passato, di poter immaginare e quindi costruire il proprio futuro, cercare la propria felicità, cercare l'amore, ok. E dall'altra parte c'è anche una forte critica, una presa di posizione forte rispetto al mondo contemporaneo, al tempo odierno. Sono ambientati entrambi in delle discariche, in dei luoghi suburbani dove ci sono carcasse di edifici, in deserti simbolici della metropoli e del cuore, naturalmente. Mm-hmm. E questo. Sì. Senti, qual è stata la spinta per entrambi, per la scrittura di entrambi? Ma non lo so, nel senso che per quanto riguarda il mostro, rappresentava per me, allora abitavo ancora in provincia, abitavo ancora ad Ancona, perché io sono delle Marche, e probabilmente soffrivo molto la sensazione di pantano, comunque di immobilità che la provincia in qualche modo comunica, no? Ecco, e quindi ho scritto questa storia perché avevo bisogno probabilmente di immaginare una possibile uscita, una possibile via di fuga. Mentre invece la ragazza col girasole è nata in un periodo veramente di forte rabbia, e tutto questo rancore che io avevo nei confronti della città, che è Roma, in cui ora abito da 5 anni, nella quale ho vissuto e incontrato persone meravigliose, ma anche mi sono trovata intrappolata in numerosi incubi e cose allucinanti, ed è soprattutto una città piena di dolore. E quindi ho scritto mossa dalla rabbia, dalla rabbia che avevo e che ho sempre avuto. Senti, la decisione di accoppiarli per questa edizione? Allora, da un lato è stata una cosa assolutamente tecnico-pratica, nel senso che i due racconti da soli erano assolutamente impubblicabili, perché sono cortissimi, cioè il mostro è tipo 30 pagine, cioè una cosa veramente, sono molto piccoli, sono molto snelli. E dall'altro lato però sono andata veramente a ripescare no, questo mostro che avevo dimenticato in un cassetto, come tanti autori che magari scrivono delle cose che poi lasciano andare, no, e scordano da qualche parte. E invece quando l'ho rincontrato questo mostro, mi sono accorta che in realtà molte delle cose che avevo scritto, che avevo trovato nella ragazza col girasole, erano già contenute all'interno del mostro, e che quindi forse valeva la pena tentare di avvicinarli e capire se poteva funzionare. E di fatto, secondo me, alla fine funziona, nonostante le difficoltà. Senti Sofia, sono previste altre presentazioni alla tua presenza? Allora, assolutamente sì, nel senso tra la prossima sarà il 9 aprile ad Ancona, quindi la prossima sarà nella mia casa, nella mia terra patria. Però probabilmente, cioè, insomma, sicuramente ce ne saranno altre. Non so se ce ne saranno altre a breve su Roma, questo non lo so. Allora, a questo punto ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo la nostra pagina Facebook Nasce Cresce Deserti, e chiaramente il libro comunque è acquistabile in tutte le librerie indipendenti e online. Allora, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Ciao Sofia. Ciao, ciao, ciao.